La Contessa Scalza è un film di Mankiewicz della metà degli anni 50, era zeppo di nomi importanti, no? Nella storia del cinema c'era Ava Gardner, Humphrey Bogart, Rossano Brazzi, Valentina Cortese e poi c'era anche Edmund O'Brien. Beh, vabbè, chi facesse la parte della Contessa Scalza non lo so, spero non Bogart. Poi nella mia personale galleria della scalzità compare una cantante degli anni 60. Sandy Shaw scalza, sì, scalza, amava disturbare i sogni dei ben pensanti ed entrava dunque in scena a piedi nudi. Eravamo giusto peraltro del 63 64, e giusto del 63 è anche la fortunata commedia di Neil Simon, come si chiama, a piedi nudi nel parco, che fra qualche tempo ho visto che viene ricicciata a Milano in uno dei teatri cittadini. Ne hanno tratto un grande film con Jay Fonda, e Robert Redford nel film. Ecco, dire che questa particolare forma di nudità nel ribaltare un caposaldo, diciamo, della precettistica borghese prefigurasse rivoluzioni a venire forse sarebbe esagerato, ma affermare che nella semplice decisione di gironzolare senza scarpe dandone spettacolo pubblico ci sia perlomeno un che di trasgressivo e di ideologicamente dirompente, mi sembrerebbe più che legittimo. La disposizione al cambiamento è anche fatta di minimi segnali e di simboletti disseminati qua e là, clandestini fino al momento in cui concorrono alla coesione di un insieme nuovo ed inaspettato. È dunque con un certo stupore che la settimana scorsa, nel dare anch'io un'occhiata a quell'annoso rituale del Festival di Sanremo, ho colto due asserzioni sul tema. La prima era di una certa Angela Baraldi, che cantava convinta di voler andare a piedi nudi verso la campagna, mentre la seconda era di tal Tony Esposito, che, accompagnato da un mucchio di gente che si autodefiniva ladri di biciclette, diceva anche lui di voler andare a piedi nudi nel parco, esattamente 30 anni dopo di quando voleva andarci Neil Simon. Ora, tutta questa volontà di togliersi le scarpe al giorno d'oggi mi pare piuttosto sospetta. Mi pare l'espressione di desideri malsani e autolesivi di sé fino ad una forma tortuosa di suicidio. Chi andasse in un parco cittadino a piedi nudi è alla lunga destinato all'AIDS e alla breve a riempirsi la pianta del piede di siringhe e vetri rotti. È roba da fakiri con un sistema immunitario da rinoceronti. Chi poi si intestardisca a raggiungere la campagna, sempre che la trovi, va incontro ai contatti più immondi e nefasti. Voglio dire, chi guaderebbe a piedi nudi il Lambro? Lo attenderebbero rifiuti tossici, pattumi e marcescenze di ogni genere, escrementi a iosa e residuati della merceologia biodegradabile, animaletti molesti e voraci dal DNA di ferro e colonie pullulanti di virus e retrovirus incattiviti. Data per scontata l'infezione tetanica, la morte più allegra che lo aspetta è per leptospirosi. E questa storia dei piedi nudi, più che l'espressione sincera di un desiderio, sa di retorica datata. Come spesso si confà alle canzonette deteriori ed in genere ai prodotti di una cultura speculativa e fasulla, rappresenta non tanto il caso di un pensiero debole, ma piuttosto quello di un pensiero in ritardo. Il che viene a riprova delle capacità metaboliche del mercato. Così come degli schifosissimi anni 50 sono stati fatti diventare favolosi, inducendo a nostalgie struggenti soprattutto coloro che quegli anni si erano ben guardati dal viverli, così si può continuare a smerciare la carcassa di un'idea facendo finta che dentro ci sia ancora qualcosa. Ai piedi nudi di oggi rimane tanto significato quanto ad una frase d'amore di Cyrano di Bergerac. La loro facoltà di stupire c'è già stata. Ora sono soltanto citazioni e tentativi di furbizia di chi li ricicla. La prossima contessa sarà nello scafandro. E nel caso fosse presa dalla voglia di aggirarsi in un parco, lo farà soltanto dopo essersi munita di un contatore Geiger, nonché degli opportuni disinfettanti. A martedì, ringraziamo tutti i presenti, ringraziamo Walter per la regia, il festeggiamento per il ritorno dell'Oliva continua, a martedì prossimo, grazie a tutti per l'attenzione. Arrivederci a tutti.